Questa è la storia. Nel 1964 il governo italiano fa una statistica sul benessere. La capitanata vince l'ultimo posto. Porca miseria. La capitanata. Dov'è? Chi lo sa? L'Italia si mette a cercare la capitanata e la trova là dove era sempre stata, nel nord est del sud, in Puglia. Nel 1967 l'Italia viene a vedere la capitanata e trova quelle facce. Che pena, che sofferenza, che fame. No, mettiamoci d'accordo. Il governo chiama l'ENI, Ente Nazionale Idrocarburi, e l'ENI ci mette la fabbrica. Il comune di Monte Sant'Angelo ci mette la città. L'onorevole Rusecchia, deputato della Democrazia Cristiana di Foggia, ci mette il terreno, ettari di terreno davanti al mare. Il mare, carte nella mano. Monte Sant'Angelo non è sul mare. Fogli catastali alla mano. Monte Sant'Angelo ha tra le frazioni di sua competenza un territorio proprio sul mare, proprio di fianco alla città di Manfredonia, un paesone di 40.000 abitanti che nella sua vicinanza a questa piccola frazione trova la sua fortuna, una fabbrica dello Stato italiano vicino alle sue case. Vicino, più vicino. Per me la potete mettere pure in Piazza Duomo, ma allora non ci siamo capiti. La fabbrica ha bisogno di acqua, la fabbrica preferisce il mare, proprio come un essere umano. E Piazza Duomo non è sul mare ed è destinata così per sempre a rimanere solamente una piazza, mentre proprio di fianco alle ultime case di Manfredonia, gli ultimi diventano i primi. Il mondo comincia a girare. La fila per entrare alla fabbrica si fa di qua, davanti alla sacrestia di Don Nicola. Lui segna i nomi e raccoglie i voti. Ma per cosa? Per la Democrazia Cristiana dell'onorevole Rusecchia. Gli ultimi diventano i primi. Il mondo comincia a girare. Una volta qua erano tutti fichi d'India e ulivi, sì, però piccoli, insignificanti, e qualche masseria, sì, però in rovina. E invece nel 1969 alberghi, no, di più, ristoranti, no, di più, arriva la fabbrica che qui si chiama petrolchimico Anich, solido, forte, infallibile. Nel 1969 gli emigranti non emigrano più dal piccolo paese di Manfredonia. Nel 1969 nascono case nuove nella grande città di Manfredonia. Ci ha fatto la grazia, la grazia, la grazia, ci ha fatto tante grazie, grazie, grazie, grazie. grazie, la grazia, grazie. Ci ha fatto circa 1000 grazie, secondo anche l'indotto. Grazie, grazie, grazie, la grazia, grazie. Io qua sono nel 1969, ho 16 anni e sono incinta di Matteo di 5 mesi. Grazie. Matteo non è mio marito, perché io ho 16 anni e lui 18, non è solo per questo. Matteo non è mio marito, perché lui deve ancora finire di fare la scuola, ma non è solo per questo. Matteo non è mio marito, perché lui è venuto a casa a dire che mi prende, ma mio padre, ad un bastardo che mi ha messa incinta a 16 anni, non mi dà, e soprattutto perché non sa come darmi da mangiare. Ma io me lo voglio sposare, Matteo, non lo so, però mo è meglio che me lo sposo. Da 5 mesi io mangio sola. Mangio mentre mio padre legge il giornale in sala e mia madre stende i panni in corridoio. Sì, mia madre stende i panni in corridoio da 5 mesi, perché lei di uscire sul balcone si vergogna. E anch'io mi devo vergognare, ha detto lei. Mite Tavrion, ti abbiamo mandato a scuola per farti avere più di noi e invece mangando a noi ad avere. Mite Tavrion, invece di pensare a studiare, pensare a quelle porcherie. Mite Tavrion, e adesso chi ve lo campa questo? Mite Tavrion, ma da chi hai preso? Come me non sei, come tuo padre nemmeno. Mite Tavrion, perché qui sei tornata in queste condizioni e anche noi ci vergogniamo al posto tuo. Una sera Matteo arriva a casa con un telegramma in mano. La fabbrica lo ha preso a lavorare del reparto in sacco. Che significa in sacco, Matteo? Significa che ci sposiamo subito e andiamo a vivere in una casa tutta nostra. 60.000 lire in busta paga, 25.000 lire d'affitto e il resto tutto per noi. Che significa in sacco, Matteo? E significa turni, significa giornate di riposo, bambini alla colonia. Ma io me lo voglio sposare, Matteo, non lo so, però no, è meglio che me lo sposo. Significa che ci compriamo la televisione, la prima televisione a colori di tutta Manfredonia, lo stereo, l'ultimo modello, e Matte, l'acquario con tutti i pesci colorati e l'acqua che si ripurifica da sola. Che significa in sacco, Matte? E significa che Matteo si compra la macchina e io mi compro la pelliccia. Ma io me lo voglio sposare, Matteo, non lo so, però mo è meglio che me lo sposo. A casa mia, noi la televisione a colori mica ce l'abbiamo. Mio padre va in giro con una 600 tutta scassata e mia madre la pelliccia non ce l'ha e non ce l'ha mai avuta. Io vengo prima, vengo nel 1969, ma prima di me viene chi mi ha rimesso al mondo e mi ha dato la libertà, l'emancipazione. Cioè, non lo so se è la libertà o l'emancipazione. Sto meglio adesso, che dici? La fabbrica ci ha fatto la grazia a tutti quanti, sicuro, più o meno. Sì, ci ha fatto la grazia, sicuro, forse. We'll be right back. 1969, 1970, 1971, 1972. Piove forte! Fortissimo! Non si vuole andare! Accomodi il bar e chiudi il club! Posso respirare, per favore? Il sì, Dietro! Aspetta, respirare! Posso respirare, per favore? Posso respirare, per favore? Se la luce se ne va? È fabbrica! Se la luce se ne va? La fabbrica scoppia! La luce se ne va, la luce è ritorna! 1973, 1974, 1975, 1976. È scoppiato l'arsenico! È scoppiata la colonna con l'arsenico dentro! Caput, sulle piante, sulla terra, sui cristiani! Le piante? Caput! Nella terra? Caput! Che posso respirare, per favore? Io non devo pensare, non devo pensare, non devo pensare. 1977, 1978. Mamma che figlio! Non respirare, non respirare, non respirare! Posso respirare, per favore? Allontaniamoci! Non si può, ci sono le macchine davanti! Torniamo a casa! Non si può, ci sono le macchine dietro! 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986. Lo facciamo blu! Vedo tutto giallo, le macchine gialle, i motorini gialli, mezzo giallo! Penso! 1986. A questo punto io arrivo qui, a Manfredonia, con mio figlio, dopo che abbiamo cambiato città quasi ogni anno, per fare le supplenze e perché nessun posto mi sembrava mai quello giusto. Arriviamo di notte e la prima cosa che vediamo dal pullman sono tutte quelle luci... Lenichem. Sono la prima della mia famiglia che è partita. Gli altri sono ancora tutti lì, in un piccolo paesino della Sicilia. A Roma invece ho fatto l'università e lì mi sono sentita subito meglio. Un buon posto per viverci e pure un buon posto per farci un figlio. Finché suo padre mi ha dimostrato che anche Roma poteva essere stretta. E così ce ne siamo andati. Io, il mio bambino e una valigia. Che non c'è mai bisogno di disfarla completamente. Ogni anno un posto nuovo e segnata sul calendario la data per la richiesta di trasferimento. E ogni anno, in ogni città, l'impiegato del provveditorato mi chiedeva: fa l'avvicinamento a casa sua? No. Arrivo a Manfredonia e appendo il calendario al muro. E proprio prima di voltare pagina, lui mi fa: io voglio stare con te, ma non posso stare con una donna che ha sempre la valigia pronta. Lui è Marco, lo incontro qui, a Manfredonia, nel 1987, e disfo la valigia. 1987. Questi sono i fatti, questa è la storia. Nel 1987, la fabbrica è la parte più luminosa della città. La fabbrica la vedi da lontano. Già da Barletta, vedi le luci, quei colori, quell'aria di famiglia che ti aspetta a casa con le luci accese se fai tardi la notte. La fabbrica non è come il resto della città. La fabbrica non chiude mai e sta lì a tenerti compagnia. Quando sei triste, quando hai bisogno di qualcosa che sia un po' più nordico, di quel buco di culo di paese dove sei andato a nascere. Una grande famiglia allargata, una buona vicina di casa. Ogni tanto c'è qualche piccolo incidente da risolvere. E tutti i giorni c'è la spazzatura da buttare. La fabbrica come i buoni vicini, come al nord, la spazzatura la butta di notte quando non disturba nessuno, apre il serbatoio e scarica a mare. Una notte lungo la spiaggia di Otranto, nell'est sud-est del sud in Puglia, vengono trovati morti 42 delfini e 223 tartarughe. Il pretore Cillo se la prende con la fabbrica e ordina la chiusura. e sulla grande città di Manfredonia si spengono le luci, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Gli operai scendono in piazza, i sindacati scendono in piazza, il sindaco scende in piazza, l'assessore all'urbanistica e all'ambiente non può venire in piazza, però si informa molto e dice: è bugia che i rifiuti di quella fabbrica siano tossici e nocivi, è bugia che la morte dei delfini sia in relazione con gli scarichi della fabbrica. I delfini sono morti per stress. Il ministro dell'ambiente chiede scusa alla fabbrica e la riapre. Ma dopo 3 giorni lungo la costa si trovano altri pesci morti e la fabbrica è di nuovo chiusa. Gli operai restano a casa. Quelle facce. Che pena, che sofferenza, che fame. No, mettiamoci d'accordo. Il governo chiama l'ENI. E l'ENI è molto offesa col pretore Cillo. La fabbrica non darà più fastidio a nessuno. La fabbrica si pulirà da sola come un forno a microonde, farà un inceneritore e brucerà i suoi rifiuti tossici. E le altre fabbriche italiane verranno a chiedere per favore per buttare anche i loro rifiuti. Tutta Italia? No, di più! Tutta Europa? No, di più, di più, di più. Tutto il mondo avrà bisogno della grande città di Manfredonia per buttare i rifiuti. Nel 1988, il 28 settembre 1988, il presidente del Consiglio decreta che il porto di Manfredonia è particolarmente adatto all'attracco della nave Deep Sea Carrier, una nave che la Nigeria ha rimandato al mittente carica di rifiuti tossici italiani. Manifestazione. Tutta la città scende in piazza contro la nave. Uomini, donne, bambini, lavoratori, disoccupati. Mandano il sindaco a Roma dal ministro dell'ambiente per dire no alla nave. Le donne mandano il sindaco a Roma per dire no alla nave. Nunzia manda il sindaco a Roma per dire no alla nave. Nunzia. Ciao amore. Ciao amore, ciao amore, ciao. Oh, mi raccomando a te, su ta vista metta pavu, tu pinza noi qua. Su ta vista sendo su, pinza noi qua. Se ta vista sendo, a serpendel dufri, quando costi annanz omnis. Amore, io ti capisco, e tu ti raggio. Stella, non sei cada fin, non sei cada duce, non sei come da risport. E tutti hanno una responsabilità. Non sei stata duce sì, non sei stata duce no. Il forse lo sai dire. Ma poi noi qui, del forse, che ci facciamo? Ciao amore, the chill on president, ta qua, i femme, le donne noi qua, ti aspettiamo. Ciao amore, quando arrivo ne scrive, e non firmare niente, se proprio la da fe, lì prima di per me, che poi amore, se ti dovessi sentire solo, amore, se dovessi sentire freddo alla mano destra mentre stringi un abiro. Blu, nera, rossa, gialla, arancia, una penna, amore. Ave ma se, l'ha voluto venire. È per voi però, avevi visto. E tu hai ragione. Stai lì, non sai che dire, non sai che fare, non sai come rispondere. Non se cada a scrivere. Come quando che facevi gli esami, per cui non sapevo me capiva a scrivere. E in giusto rimango nessuno per copie. Amore, pensa che non dovresti dire sì. Amore, se non riesci a dire no e non sai dire sì, forse, forse lo sai dire. Ma poi noi qui, del forse. E che ci facciamo, amore? Prova a dire. Dipsicarier, la nave. Maria Gra, prova a dire dipsicarier, la nave. Prova a dire la nave. No, amore, cafa, avuto pavu, ti sei sentito solo ti sei sentito triste, ti sei sentito in vena di regali, amore. Tu sei sentito l'aria di me, pa che siamo, pa pensiamo, pi menemo, pa facciamo. Amore, te lo sei proprio sentito. Insieme vogliamo costruire un atteggiamento al femminile verso la città, che sia di cura e rispetto, e non di rapina e conquista. Non conviene che l'Enicam e questa città facciano progetti insieme. Tra l'Enicam e questa città c'è incompatibilità psicologica. Tra l'Enicam e questa città c'è incompatibilità economica. Tra l'Enicam e questa città c'è incompatibilità di buon vicinato. Sta a 500 metri da casa nostra e non serve un incidente straordinario. Basta la sua normale attività di ogni giorno per minacciare la salute di noi cittadini. Tra l'Enicam e questa città c'è incompatibilità. Thank you. città del sud. Quando partono le psicosi collettive, serve poco appellarsi alla ragione. Firmato Giorgio Bocca. Parla il presidente della USL. Io ho firmato il rapporto sicurezza dell'impianto ente? Può darsi. Io ho firmato il rapporto sicurezza dell'impianto ente, ma non l'avevo letto. Amore. Parlano i dirigenti ente. Qui più che boicottare la fabbrica si vuole danneggiare tutta l'economia italiana. No. Parla l'assessore regionale all'ambiente e all'urbanistica. Non ci lasceremo sottomettere al ricatto dell'ambiente. Parla un operaio. Non capisco quale danno potrebbe ormai provocare lo sversamento in mare di reflui. Ammesso pure che siano inquinanti, visto che ormai lo sversamento è già avvenuto per 8 anni. Pure tu però. Parla il ministro dell'ambiente Ruffolo. Rivolte popolari contro la ragione. Muo. Abbiamo le visioni. Dopo Enichem e Deep Sea Carrier, blocco di alghe scambiato per chiazza di petrolio. Città visionaria. Facciamo adesso in piazza tutte quante. E come ve lo spiego? Che poi a me i pensieri migliori mi sono sempre venuti in cucina. In particolare mentre faccio la marmellata. Sarà che la marmellata allontana i brutti pensieri. Sarà che per fare la marmellata ci vuole almeno un'ora. E gira gira i pensieri vengono a chiarezza. Io li scrivo tutti su un quadernino nero. Un quadernino nero di cui però mi vergogno pure un po', perché è quello delle ricette che uso di più. Pensieri unti, appiccicosi. Ci trovo scritto, che so, del mistero dell'amore. Perché l'amore è insieme così forte e insieme così debole. Ci trovo scritto anche della questione con Emanuele al sindacato. Io ed Emanuele abbiamo fatto insieme tutte le lotte, ma lui non riesce a capire perché io sia tanto critica verso la politica. Ad esempio, io mi arrabbio moltissimo perché nelle riunioni si fanno sempre le 11 a parlare e molte volte a ripetere sempre le stesse cose, gli stessi interventi. E io già dalle 10 non ascolto. Non riesco a concentrarmi, guardo l'orologio. La ragazza avrà dato il Benadryl al bambino. Si sarà abbassata la febbre. Sei già addormentato? Ecco, è questo che mi fa litigare con Emanuele. Ma perché la politica ha dei tempi così lunghi? Ma che cos'è la politica? Se deve trovare soluzioni per la vita di tutti, se deve risolvere i problemi della vita, allora perché è così complicata? Stando qui, con tutte le donne, ogni giorno, mi viene sempre più a chiarezza che anche loro hanno a casa il quadernino delle ricette di cucina. Ma noi che ci stiamo facendo adesso in piazza tutte quante? Vogliamo trasferire in piazza i pensieri della marmellata. Così si capisce, così non ci dobbiamo spiegare tutti, tutte, lo sappiamo già. Tutte le donne, tutte diverse, tutte qui. Spaghetti sopra questa mano. fabbrica l'hanno messo proprio del rambetta chi? I vaghi sembra la pita qua. Alla Madonna la peggio. Ma io oggi. Io ti vengo a fare la guerra. Vattene a casa, qua la fabbrica è stata 20 anni, non ha mai dato fastidio a nessuno. La nave se n'è andata, mo vattene a casa. Nunzia, a noi la fabbrica ci ha fatto la grazia. A me la fabbrica mi ha dato il frigorifero. A me la fabbrica mi ha dato la televisione e l'acquario con tutti i pesci colorati. Nunzia, a me la fabbrica mi ha mandato mio figlio all'università. E a me la fabbrica, Nunzia, a me mi ha dato un marito. Ma io me lo volevo sposare, Matteo. Vabbè, non, poi me lo sono sposato. Nunzia, vai a casa, vai a casa. Marito mi fa mare nero. E tengo 8 figli. Da quando che mi sono sposata. E avete all'arco dei baroni cesta. Numero 18. Proprio a fianco, alla fabbrica. Quando è saputo che in Duport Nostro aveva arrivato la nave dei veleni e detto è mo basta. Per io stamattina stavo sopra la stretta per le amiche e è una folla tutta femmina. Ne visto me tanta femmina tutta insieme e tutta verruta e pusanga a lui. Camminando mi sono trovata proprio alla fabbrica. Io vedevo buio ai capezzili delle niche a tutti i lastri. Ci fissiamo. Io sentivo che dicevano cose di femminelle. Ma in d'accordo un momento mi sono seduta in sangue da sottagliante di pita fino alla ciuma di capelli e da mezzavocca dell'anima mi sono nulla. Uè, basta! E detto io. Tra me e io ci mi sono trovata innanzi, un carabinieri. Come costo non mi ha puntato il fucile in B. A me! Che fai questo fucile qua? Costo prima l'ho fatto e poi ci penduto. Guarda la panza. Io ci penso che io sto con Gino. Io me ne so accorto. Sparmi a me a sto agnone che tengo in da panza. Le cominciate a candenucare a nato, a iese e a tutta razza a sè. Da di che mi sono sede, tanta parolaccia, mi avessi cristiani. U carabinieri ci scandete, ci dete in dret, a cominciare a cangicare. Chi l'asta bu marescià? At personaggi. Nuca se criosa, che mi viaduce. Qui di ninnillo di socra, per mustazzette, per quei dargli da maresciallo, per stare che per un quartennato. Che diceva, uè, che succede? Che succede? Vieni qua. Camo tutto chi è? E che succede? U carabinieri qua prese, mo punta tu fucile in bit, senza me le fe. Allora veramente voluta la guerra, voluta vedere i morti, venne sentito tutto quanto là c'è. Per questo, ha cominciato a cangiare. Quando tutti insieme. Oh, vum! Sbattono te, un maresciallo. Dritto! Te! Yes! Un maresciallo! Isvene! Io! Una femmina! Sono messa all'invito! Io vado in piazza. e lei mi dà un bicchiere di latte. Non mi piace il latte, nonna. Non è questione di piacere o non piacere, pure a Matteo non piaceva, ma mo ha imparato e se lo beve tutti i giorni. Matteo è suo figlio e lavora all'Heineken. Matteo è il marito mio e tu che fai qua? Cecil, ma che vi facen? Mite tavrioni, non ti abbiamo insegnato niente a casa tua. Mite tavrioni, Cecil, l'ho vista prima coi giornali. Questa mattina mio zio Matteo si è incatenato ai cancelli della fabbrica per non farla chiudere. Io sono venuta con le altre e mia nonna è venuta a portargli il pranzo. Adesso sta di fronte a me col sacchetto del panino in mano, come quando mi portava la merenda a scuola. Cecilia, che fai qui? Ieri a casa c'eravamo tutti e tu dove eri? Ma che fai? Ci vuoi mettere l'uno contro l'altro? Ma cosa vuoi, nonna? Tua nonna, noi stiamo bene, noi stiamo benissimo. Adesso Matteo è diventato saldatore senza protezione. E che significa senza protezione, Matteo? E quella si chiama proprio così la qualifica. Saldatore senza protezione all'Heineken e la fabbrica tutti i giorni a Matteo. Gli dà il latte, perché quello il latte lo purifica. Dopo che Matteo si è infilato senza protezione nella colonna dove prima c'era passato l'arsenico. E quello perché il sindacato sulla questione del latte non ci passa sopra, perché la questione del latte è una questione importantissima e quindi il sindacato non ci passa sopra. Sì. Queste ballano. Che cosa ballano? Adesso cantate. Che cosa state cantando? Che ne sapete voi del sindacato? Se il sindacato dice che la questione del latte è importante, la questione del latte è importante e quindi quello purifica, il latte purifica. Caro Petrolchimico, conviene che ci prendiamo un periodo di riflessione, io e te. Non possiamo più fare progetti insieme. Sì, ho già sentito le tue ragioni, lo sviluppo, il progresso economico, anch'io. Anch'io credo nello sviluppo, nel progresso economico, ma non in quelli in cui credi tu. Non ci facciamo i caratteri, siamo incompatibili, non ci facciamo di carattere. Tu c'hai il tuo carattere oppressivo, pronante, mi c'è sempre qui, non ce la faccio più. Mi pucci dappertutto, sempre qui, sul collo, non riesco a respirare. Fammi respirare, lasciami spazio, ho bisogno dei miei spazi. Ho bisogno di un periodo di riflessione, dammi aria, togliti da davanti. Prima di te, c'ero io, c'eravamo noi prima di te. La mia spiaggia, c'avevo la mia spiaggia, era pulita, poi ti sei piazzato lì, anche lì. E togliti da davanti, vai, io mo te lo dico. Io non ti voglio più vedere, non ti voglio più vedere. Perché non ti chiudi in te stesso? Vai in depressione, vai in depressione, chiuditi in te stesso, reprimiti, deprimiti, puzzi dappertutto, sei oppressivo, opprimente. Io l'altro. Una donna può fare posto nel suo corpo a qualcosa di nuovo e stanno bene insieme. Mamma? Ma? Come nascono i bambini? Le bambine non fanno certe domande a casa mia. Mamma, ho chiesto alle mie amiche, per fare i bambini bisogna fare l'amore. Le bambine non dicono certe parole a casa mia. E la cinghia di mio padre, mia madre me la stampa in faccia. A Roma, all'università, incontro Daniele e vado a vivere con lui. Ma questo non lo posso dire a mia madre. E dopo 3 mesi sento le farfalle nella pancia. Mamma, mamma, sono incinta. Pronto? Pronto? Pronto, mamma? Adesso non sono più la sua bambina. Adesso però sono la bambina di Daniele. E metti questo vestito? Sì, così stai bene, stai benissimo, no? Non puoi mica uscire da sola, sei incinta. In metropolitana non ci puoi mica andare, sei incinta. L'occupazione all'università non la puoi finire. Ma dove vai? Sei incinta. Il portone dell'università è chiuso. E per andare ad occupare bisogna scavalcare un muro altissimo. Io vado e comincio ad arrampicarmi. Ma tu non puoi andare, sei incinta. No? Io vado. E lui mi tira. Mi tira, mi tira, cado a terra. Ecco, ma vedi che sei pazza? Te l'avevo detto di stare attenta, sei incinta. Quando ci siamo rialzati, io e la mia pancia, ho capito che una donna incinta è più forte e non più debole. Dopo la laurea con Daniele è finita. Ho iniziato a girare tutta Italia, io, il mio bambino, la mia valigia e la mia diversità di ragazza madre straniera, sempre straniera. Ogni anno un posto nuovo. Ogni anno fino a qua. Fino a che lui mi dice: io voglio stare con te, ma non posso stare con una donna che ha sempre la valigia pronta. Lui è Marco e lo incontro qui a Manfredonia. Disfo la valigia e vado a vivere con lui. Mamma, mamma, sono incinta. Papà, passami la mamma. Come non sta bene? Quando arrivo è troppo tardi. Mamma, sono innamorata. Cerco il suo odore dappertutto. Apro tutti gli scaffali, in tutta la casa. Posso respirare, per favore? Dietro i barattoli dello zucchero e quelli del caffè. Sbuca di lì il quadernino unto delle ricette di mia madre. Lo apro e ci trovo le sfogliatelle, la marmellata di mela cotogna, la torta alle mele e appuntati qua e là i pensieri di mia madre. Perché l'amore è insieme così forte e insieme così debole. Mi siedo e provo a rispondere. Quando la nave è arrivata qui e tutte le donne sono scese in piazza, io ho detto: io vado. No, tu non puoi andare, sei incinta. È per questo che vado. Brave, le belle. Brave e belle. La rivoluzione delle donne è il sogno di ogni paese. La rivoluzione delle donne è il sogno di ogni nazione. La rivoluzione delle donne è un sogno e basta. Questi sono i fatti. Questa è la storia. Dal 1988 alla 1990, le casalinghe, le madri, le intellettuali, le giovani donne, le donne in fiore, le donne occupano la piazza e dividono la città. Gli amici non sono più amici. I parenti non sono più parenti. Le donne mettono sotto sopra la città. Che confusione, che rumore, che fastidio. Nel 1990, il 2 luglio 1990, la piazza viene smantellata di notte, quando non c'è nessuno, e le donne finalmente non devono controllare più niente e possono tornare a casa, a casa, a casa. Andate via, tutte, andate via, a casa, adesso, andate via, a casa, andate via, via, adesso, tutte, su, andate via, via, via, via, andate via, via, andate via, su, andate via, alzatevi, andate via, via, via, la piazza è mia, andate via, via, via, via, via, andate via tutte, andate via, via, via, via, via, via, via, la piazza è mia. E arrivano gli uomini a riprendersi ognuno la sua sedia e mettere in ordine la piazza. E arrivano gli uomini a riprendersi ognuno la sua sedia e mettere in ordine la piazza e la fabbrica. Si spengono le luci, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Nel 1993 il governo della Nigeria fa una statistica sul benessere. Il piccolo paese di Aba vince l'ultimo posto. Aba, dov'è? Chi lo sa? L'Italia si mette a cercare Aba e la trova là dove era sempre stata, sulla riva del fiume Aba, nel centro ovest del sud del mondo, in Africa. Nel 1994 l'Italia viene a vedere la Nigeria e trova quelle facce. Che pena, che sofferenza, che fame. No, mettiamoci d'accordo. Il governo chiama l'ENI e l'ENI si trova belle mani una fabbrica che sta proprio chiudendo, in capitanata a Manfredonia. Il piccolo paese di Aba trova la sua fortuna, una fabbrica dello Stato italiano vicino alle sue case. Gli ultimi diventano i primi. Il mondo comincia a girare. Gli ultimi diventano i primi. Il mondo continua a girare.